Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Molto spesso, di questi tempi, è stato richiamato il paragone con la Grande Depressione. La grande crisi economica che investì gli Stati Uniti d'America nel 1929 e che per oltre un decennio tenne in ginocchio l'economia degli States e quella europea. Paragone inquietante, per il momento forse ancora azzardato. In ogni caso, oggi a Destini Incrociati vogliamo riportarvi proprio negli anni della Grande Depressione. La storia di oggi è infatti ambientata in quegli anni duri, difficili, ma è una storia di speranza e di riscatto. Martedì 29 ottobre 1929. L'America del miracolo economico, delle grandi imprese, delle speculazioni, del petrolio, del cinema, vive la sua apocalisse. Dopo le pesanti avvisaglie dei giorni precedenti, la borsa di Wall Street crolla in modo impressionante. Il Dow Jones perde 14 miliardi di dollari in una sola sera, 30 miliardi se si considera tutta quella devastante settimana. Un'edizione del Corriere della Sera di quei giorni descrive così quanto accaduto a New York. Al mattino erano state buttate sul mercato 3.260.000 azioni. Alle ore 12 il numero era di 8 milioni. Alle ore 13.30 era salito a 12.600.000. All'ora di chiusura venne stabilito il nuovo primato degli scambi, 16.380.000 azioni, che si assommavano a quelle del giovedì, 15 milioni, e con quelle di venerdì e sabato toccavano l'impressionante totale di 48.617.700 azioni. Il meccanismo speculativo si è inceppato e ritorto contro i suoi stessi utilizzatori. Da anni gli americani si impegnano in gravosi prestiti da investire nell'acquisto di azioni, il cui prezzo continua a salire. Quando si diffondono le prime voci su una possibile discesa dei prezzi, si scatena la corsa alla vendita, i prezzi crollano, milioni di cittadini statunitensi finiscono sul lastrico, banche, aziende, imprese falliscono. Oltre ai risparmiatori, queste cifre sono controverse, vanno da 5 milioni a 20 milioni di malcapitati, la reazione a catena portò a fondo società finanziarie, istituti di credito, investment trust, fondi di investimento, aziende commerciali e industriali, piccoli e grandi commercianti. Una strage che continuò per diversi anni. Milioni di persone non coinvolte pensarono che erano cose da ricchi, non potevano certo supporre che le loro vite sarebbero state influenzate. Si sbagliavano, e di molto. Nel giro di qualche mese, la crisi coinvolse tutti i settori, con riduzioni di posti di lavoro, di prezzi, chiusure improvvise di banche, di fabbriche, di negozi, di servizi essenziali, e con la borsa che continuò a fare altri tonfi. Come è noto, il lungo percorso di riscatto inizia ufficialmente nel 1933, con l'elezione di Franklin Roosevelt alla Casa Bianca e il varo dei provvedimenti del New Deal. Anche la nostra storia inizia nel 1933. Al centro della vicenda che vedrà il destino di due uomini incrociarsi e cambiare direzione c'è un animale, un cavallo, un puro sangue che viene al mondo proprio nel 1933 a Lexington, nel Kentucky. Si chiama Seabiscuit. Seabiscuit, nei suoi primissimi anni di vita, sembra una metafora dell'economia e del popolo americano durante la Grande Depressione. Tutti dicono che ha grandi potenzialità mentre cresce nelle fattorie Claiborne Farm vicino a Paris, con l'obiettivo di diventare un cavallo da corsa. Però è grasso, svogliato e sviluppa col tempo anche un grave difetto alla zampa anteriore destra che gli impedisce la fluidità di corsa. In poche parole, Seabiscuit è un cavallo destinato alla sconfitta. Di proprietà di Miss Gladys Mills Phipps, Seabiscuit diventa lo zimbello dell'intera fattoria, come ricorda il suo addestratore dell'epoca, Sunny Jim Fitzsimmons. Seabiscuit era pigro e svogliato, incredibilmente mansueto. Amava trascorrere ore all'ombra degli alberi della fattoria, sdraiato, a riposare. Era diventato oggetto di scherno da parte degli allenatori, dei fantini e dei braccianti che frequentavano la fattoria. Provai anche con metodi diversi da quelli che usavo di solito, ma non ci fu verso. Fitzsimmons era contrario all'uso della violenza per l'addestramento dei cavalli, ma per tentare di smuovere il carattere troppo compassato dell'animale prova a utilizzare anche la frusta. Niente di fatto. Quello che ottiene è che il cavallo diventa nervoso e aggressivo senza dimostrare la minima attitudine per le corse. Per 3 anni Seabiscuit viene fatto gareggiare in competizioni minori, nonostante il suo scadente stato di forma, per cercare di far nascere in lui lo spirito agonistico che gli è sempre mancato. Niente da fare. Nel 1936 la sua proprietaria decide di venderlo. Riesce a ricavarci $8,000. Lo acquista un imprenditore appassionato di cavalli che si chiama Charles Stewart Howard. Howard non è un semplice imprenditore. È passato alla storia come il più grande venditore d'auto degli Stati Uniti. Ai primi del Novecento, infatti, aveva iniziato a lavorare alla Buick International come venditore, occupandosi dell'area di San Francisco. Nel 1906 la sua fama viene accresciuta da una grande intuizione in una tragica circostanza. La città californiana viene rasa al suolo da un terribile terremoto. Howard mette a disposizione le sue vetture invendute per i soccorsi, inventando di fatto l'autoambulanza. Questa operazione filantropica diventa una straordinaria forma di pubblicità per la Buick, che vede triplicate le vendite di automobili. La Buick si trasforma in General Motors. Howard diventa ricco. Buona parte dei soldi che guadagna, specialmente dopo il fallimento del primo matrimonio e la tragica morte di un figlio, vengono investiti nelle corse dei cavalli. Non solo scommesse, ma anche una sua scuderia. Così, nel 1936, mentre con la seconda moglie si trova nel Kentucky, decide di acquistare Seabiscuit. Perché Howard investe $8,000, l'equivalente odierno di 65.000 euro, nell'acquisto di un cavallo apparentemente perdente? Da un lato è un'intuizione. Dall'altro, Howard si fida ciecamente di una figura fondamentale, il preparatore e allenatore dei cavalli della sua scuderia. È anche il nostro primo personaggio di oggi. Si chiama Tom Smith. Thomas Robert Smith, detto Tom Smith. Un nome che oggi suona leggendario per chi si occupa di cavalli da corsa. Il suo mito inizia da molto lontano, dalle grandi pianure del sud degli Stati Uniti, dove Tom nasce il 20 maggio del 1878. Non c'è un luogo di nascita preciso, una baita nei boschi al confine tra Georgia, Tennessee e Carolina del Sud. Siamo quasi nell'America di Mark Twain, quella di Tom Sawyer e Huckleberry Finn. L'infanzia di Tom Smith ha qualcosa di leggendario. Amico dei nativi americani che lo soprannominano il tranquillo solitario, ribattezzato Silent Tom dai coloni inglesi, Smith fin da ragazzino è un vero e proprio cowboy, di poche parole, di indole schiva, portato a isolarsi e a preferire la silenziosa compagnia degli animali a quella degli uomini. Smith diventa un mandriano, guidando i bovini nei lunghissimi spostamenti verso le grandi praterie americane. Successivamente, il cowboy mostra un talento particolare per l'addestramento dei cavalli. Inizia a lavorare per l'esercito. Chi lo vede all'opera giura che sia in grado di parlare con gli animali, che riesca a instaurare con essi un rapporto quasi umano. Nei primi anni del Novecento, Tom Smith viene assunto dal Colorado's Unaweep Ranch come addestratore di cavalli da esibizione. Lo fa per 20 anni e qui inizia anche ad addestrare i cavalli da corsa, come ha lui stesso raccontato in un'intervista rilasciata a un giornale dell'epoca. Riesco a tirare fuori il meglio dai cavalli, perché cerco di creare una sintonia con loro. Si tratta di animali, certo, ma il loro spirito agonistico riesce ad emergere solo nel momento in cui si riesce a ricreare una condizione di serenità. Così, dal 1921, Smith abbandona il Colorado Ranch e inizia a fare il preparatore di puro sangue da corsa in giro per l'America. Il primo incontro con Howard avviene nel 1934, negli anni della Grande Depressione. Un amico comune, tale George Giannini, segnala ad Howard le straordinarie abilità di Smith. Il magnate non se lo fa scappare e così Smith riceve un'offerta irrinunciabile per diventare il preparatore esclusivo della scuderia di Howard. Tom Smith è l'uomo che consiglia ad Howard l'acquisto di Seabiscuit. lo vedono una prima volta insieme nel 1936. Due mesi dopo, Smith va a visionare una gara che ha il cavallo tra i partecipanti. Nonostante la svogliatezza e la pigrizia che il cavallo evidenzia, c'è qualcosa in lui che colpisce profondamente l'addestratore. Quando Smith torna da Howard, le sue parole sono chiare ed inequivocabili. Mi porti quel cavallo. Ha delle potenzialità che nessuno ha mai tirato fuori. Io posso farlo e lo trasformerò in un campione. Mi guardava dall'alto in basso come se stesse dicendo: ma chi diavolo sei? Mi ha annuito come se mi facesse l'onore di notarmi. Mentre lo portavo via, gli ho detto: ci rivedremo. Se lei me lo porta qui, lo renderò un campione. Howard si fida ciecamente e firma immediatamente l'assegno da $8,000 che porta Seabiscuit nelle sue scuderie. Ora è nelle mani di Tom Smith, che deve trasformarlo da cavallo indolente a campione. I metodi che Smith usa con Seabiscuit sono a dir poco bizzarri. Diventa, potremmo dire, il suo psicoanalista. Il cavallo ha un'innata e spiccata tendenza alla pigrizia, ama dormire. Smith lo asseconda, prevedendo nella sua giornata di allenamenti lunghe soste per il sonno. Addirittura stabilisce una regola: quando Seabiscuit si sdraia per riposare, tutti i componenti dello staff devono andare in pausa e lasciarlo lì, finché spontaneamente non si sentirà di riprendere l'allenamento. Con questo trattamento degno di un campione bizzoso del nostro calcio, Smith riesce a ottenere subito un risultato impressionante. Seabiscuit viene portato sul celebre tracciato Pimlico Race Course a Baltimora, nel Maryland, per una sessione di prova. Non ci sono grandi aspettative, eppure il cavallo stabilisce immediatamente il record assoluto del tracciato, sotto lo sguardo allibito di Smith e Howard. Le previsioni del suo allenatore si stanno realizzando. Se è vero che le potenzialità di Seabiscuit ormai sono chiare a tutti, è altrettanto vero che rimane un importante problema di fondo. Il cavallo molto spesso è assolutamente intrattabile, scontroso, talvolta aggressivo. Smith ha una spiegazione tutta sua. Seabiscuit fino a questo momento è stato trattato sempre nel modo più sbagliato, senza cercare di comprenderlo. Gli sono state inflitte anche numerose frustate, il che non ha fatto altro che incattivirlo. È necessario cercare di capire fino in fondo le ragioni del suo disagio. Sono teorie che sembrano in alcuni tratti rasentare la stregoneria, eppure si rivelano sorprendentemente azzeccate. Attraverso questo approccio quasi psicanalitico, Smith arriva a una conclusione netta: il cavallo si sente solo. Come d'abitudine, infatti, ha una stalla interamente a lui dedicata, dove rimane isolato per buona parte della giornata. Per rimediare, inizia con l'affiancargli un altro puledro che gli faccia compagnia nella stalla. Poi costruisce una vera e propria allegra brigata di animali. Arrivano un cagnolino e una scimmietta a costituire un quartetto quantomeno insolito. Il fatto che sorprende tutti è che funziona. Morale e carattere di Seabiscuit migliorano drasticamente. La compagnia dei tre amici animali lo rende tranquillo, docile e affabile. I suoi allenamenti diventano molto più intensi. Smith può iniziare a plasmarlo e a trasformare la sua indole. I tempi nei giri di prova continuano a migliorare incessantemente giorno dopo giorno. È quasi tutto pronto per il suo grande rientro nelle gare. Quasi. Manca un dettaglio. Il fantino. Siamo nell'agosto del 1936. L'America sta uscendo a fatica dalla Grande Depressione, ma sono ancora moltissimi i senza tetto, i vagabondi e gli emarginati che il tracollo borsistico di Wall Street ha prodotto. La maggior parte di loro, tuttavia, non si arrende e cerca ossessivamente, nei modi più improbabili, di trovare lavoro. Uno degli ambienti in cui anche in questo periodo si riesce a trovare qualche impiego è quello delle fiere itineranti. Giostrai e altri ambulanti di ogni tipo spesso offrono impieghi mal pagati e anche rischiosi a uomini in difficoltà. In uno degli afosi giorni di quell'estate, per curiosare, si reca alla fiera di Detroit Tom Smith. Il destino, a questo punto, gioca un ruolo fondamentale. Un uomo, un mezzo vagabondo, si avvicina a Smith guidato dall'istinto per chiedergli se conosce qualcuno che abbia un lavoro per lui. Questo disgraziato ci è finito per caso a Detroit. Ha fatto l'autostop, era diretto più a nord, ma la macchina dell'uomo che gli ha dato un passaggio si è rotta e lui è finito qui. I due si presentano. Quest'uomo si chiama Red Pollard, professione fantino. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando una storia di riscatti. Siamo in America, infatti, durante la Grande Depressione. Come il popolo statunitense tenta di rialzarsi dalle grandi difficoltà a cui si è trovato a far fronte, così i nostri personaggi cercano di risollevare le sorti della propria esistenza. Il cavallo Seabiscuit, considerato un brocco, un perdente, un animale pigro e inadatto alle corse, diventa un cavallo da corsa dalle potenzialità enormi grazie a un nuovo preparatore, il burbero Tom Smith. Smith, nel 1936, concede un'opportunità di riscatto anche a Red Pollard, fantino incontrato per caso che la Grande Depressione aveva spinto a diventare quasi un senza tetto, a cui affida una chance di cavalcare Seabiscuit. L'incontro tra Pollard e Smith avviene nell'agosto del 1936. Smith cerca un fantino, Pollard un lavoro. Per puro caso, alla fiera di Detroit si parlano. Smith è un istintivo e la sua sensazione su Pollard è molto buona. Lo invita quindi a conoscere il cavallo. Il primo incontro tra Pollard e Seabiscuit avviene alla fine del mese di agosto, nelle scuderie di Charles Stewart Howard, proprietario del cavallo. Smith decide che i due devono incontrarsi e affrontarsi soli. Così Pollard varca la soglia della stalla di Seabiscuit dopo essere stato messo in guardia sul carattere non proprio espansivo del cavallo. Infatti, appena Pollard si avvicina a Seabiscuit, lentamente, osservando l'animale negli occhi, questo cerca di scacciarlo con il muso, dimostrando un atteggiamento molto aggressivo. Pollard però non si scompone, è determinato, vuole quel lavoro e ha capito che ha davanti un potenziale eccezionale campione. Così rimane indifferente all'aggressività del cavallo e anzi estrae dalla sua tasca una zolletta di zucchero. Gliela porge. Il cavallo sembra quasi stupito, l'accetta dopo un'iniziale indifferenza. Si lascia accarezzare. È fatta. Tra i due si è instaurato un legame empatico che non potrà che dare grandi frutti. John Pollard, detto Red per via della capigliatura rossa, è un fantino esperto e talentuoso. Ha 27 anni, è canadese, di Edmonton, nell'Alberta, figlio di immigrati irlandesi. La sua è una famiglia numerosa e discretamente benestante, e Red è un ragazzo ricco di passioni. Lo sport, atletica e pugilato in particolare, e la letteratura. È un vero e proprio malato di libri. La sua vita cambia quando i suoi genitori gli regalano Forest Dawn, il suo primo cavallo. Quando Red ha circa 15 anni, le sorti economiche della sua famiglia non sono particolarmente buone. Purtroppo il suo cavallo deve essere venduto. Red non si scoraggia però e per stare vicino al suo amico a quattro zampe e allo stesso tempo aiutare le casse familiari, trova lavoro presso un grossista di alimenti per cavalli, quello che rifornisce la fattoria presso la quale dimora ora il suo cavallo. In questi anni, Pollard decide quale sarà la sua professione futura. Il fantino. Prima dei 20 anni, dato che la situazione economica della sua famiglia peggiora ulteriormente, i genitori di Red decidono di affidarlo a un tutore che si prenda cura di lui. L'idea dei suoi genitori è che in questo modo Red potrà più facilmente avere una vita normale. Invece, accade proprio il contrario. Dopo solo un anno in cui effettivamente riesce a iniziare la sua carriera di fantino, il suo tutore, che era a sua volta sprofondato in cattive acque sul piano economico, lo abbandona durante una gara che si svolge in Montana. Red rimane solo e deve pensare a come andare avanti. Sono anni difficili, come lui stesso racconterà anni dopo nella sua autobiografia. Avevo 20 anni e mi ritrovavo a girovagare per gli Stati Uniti in cerca di un piccolo impiego come fantino. Purtroppo ero alto per essere un fantino e questo non mi facilitava. Partecipavo a gare minori e non vincevo mai, anche perché cavalcavo animali oggettivamente lenti. Da giovane avevo praticato diversi sport, tra cui il pugilato. Decisi che mi sarei potuto guadagnare qualche soldo proprio con il pugilato. Con il soprannome di Puma, Pollard inizia a combattere nei tanti circuiti dilettantistici degli States. Intanto scoppia la Grande Depressione e il pugilato diventa uno dei sistemi più frequenti per sbarcare il lunario. Pollard fa il fantino di giorno e il pugile la notte. Con i cavalli qualcosa cambia proprio nel 1929. Il fantino, infatti, inizia a vincere e mette in mostra finalmente il talento che sembrava essere rimasto nascosto fino a quel momento. Soprattutto, mostra una qualità estremamente rara: la capacità straordinaria di domare gli animali più problematici e nevrotici. Con una calma fuori dal comune e una grandissima pazienza, Pollard entra subito in sintonia con il cavallo e riesce a tirarne fuori il meglio. Nel 1930 un nuovo intoppo frena la carriera di Red Pollard. Durante un allenamento, un calcio fortuito di un cavallo lo colpisce sul volto. Red cade a terra, perde i sensi. Quando si risveglia, fa una terribile scoperta. Ha perso quasi completamente la vista dall'occhio destro. Ciò nonostante, non dice nulla a nessuno. Un fantino di altezza ben sopra la media e cieco da un occhio non farebbe molta strada. La carriera di Pollard, per questo inconveniente, sembra navigare nella mediocrità. Quando gareggia, ha la parte destra del campo visivo totalmente inutilizzabile, il che lo porta ad essere meno competitivo e più scoperto su quel lato. Nel 1932 la crisi stritola anche il mondo dei cavalli. Pollard si ritrova senza un lavoro e ritorna a fare la vita del senzatetto, tra vagabondaggi e incontri clandestini di pugilato, fino al 1936 e all'incontro con Tom Smith. Fu una delle circostanze più fortunate della mia vita. Capitai a Detroit per un caso e quando mi imbattei in questo distinto signore gli chiesi se sapeva come e dove avrei potuto trovare un lavoro. Gli spiegai che ero un fantino, ma che sarei stato disposto a fare qualsiasi cosa. Lui cercava proprio un fantino e forse, mosso a pietà, decise di farmi provare. Come va a finire l'incontro tra Pollard e il cavallo Seabiscuit l'abbiamo già raccontato. Utilizzando quella calma che gli aveva regalato un briciolo di notorietà in passato, Pollard entra in sintonia con Seabiscuit e inizia ad allenarsi con lui. Il team ora è al completo, anche se sulla carta ha un che di picaresco. Seabiscuit, cavallo considerato lento, perdente e pigro, dovrebbe essere il campione. Il cowboy Tom Smith lo allena. Red Pollard è il fantino, cieco e troppo alto. Una scimmietta, un cagnolino e un puledro da compagnia completano il quadro, fornendo il supporto psicologico all'animale. Una squadra su cui nessuno scommetterebbe due lire. Eppure... Signore e signori, benvenuti a Yonkers, all'Empire City Race Track. Assisterete oggi alla corsa Scarsdale Handicap, con un premio per il vincitore di $7,300. È la seconda uscita del nuovo Seabiscuit con Pollard in sella. La prima a Detroit è andata male. Il padrone del cavallo, Charles Howard, inizia ad essere spazientito. Sta investendo un sacco di soldi per Seabiscuit, anche in modo piuttosto bizzarro, ma i risultati non arrivano. Anche questa seconda gara sembra circondata da scetticismo. La partenza di Seabiscuit non è buona. Il cavallo rimane piuttosto indietro e tutto lascia presagire una nuova disfatta. Prima dell'ultima curva, però, qualcosa sembra cambiare. L'animale muta completamente il suo passo. Sembra improvvisamente volare, sembra improvvisamente avere acquisito una grazia e una leggerezza di movimento che prima gli erano completamente estranee. Lungo il rettilineo finale, Seabiscuit completa la rimonta e anzi stacca tutti gli avversari. Vince di quasi 5 lunghezze. Howard sugli spalti è letteralmente pietrificato. Non può credere ai suoi occhi. Tom Smith ha iniziato a prendersi la sua rivincita. Era l'unico a credere in Seabiscuit e ora il suo azzardo comincia ad avere un senso profondo. Esulta commosso anche Red Pollard. È il suo primo successo importante, il trionfo che attendeva da tempo e che lo ripaga di mille sofferenze, che potrebbe significare una svolta radicale nella sua vita. Nel giro di poco tempo, il cavallo fa vincere ad Howard una cifra superiore a quella servita per acquistarlo. Alla fine del 1936, Pollard e Smith partono con il cavallo diretti in California per una serie di gare. La prima, per un valore di $2,700, è la Bay Bridge Handicap, con un percorso di un miglio. Seabiscuit inizia male la corsa a causa del peso di handicap assegnatogli, superiore di circa 53 kg rispetto agli altri cavalli. Ma poi vince la gara di ben 5 lunghezze, non eguagliando il record del mondo per soli 2/5 di secondo. A questo trionfo seguono altre 3 straordinarie vittorie. Seabiscuit ormai è uno dei cavalli più popolari e più vincenti d'America, pronto per gareggiare nella competizione più celebre e prestigiosa, la mitica Santa Anita di Los Angeles. Destini incrociati. Seabiscuit, da ronzino a cavallo vincente. Negli anni della Grande Depressione, questa storia di riscatto e di rivincita passa attraverso la storia di Tom Smith, cowboy di poche parole, allenatore di Seabiscuit, e il suo fantino Red Pollard, finito a vagabondare negli anni della Grande Crisi, che trova la consacrazione in sella a Seabiscuit. Il terzetto va all'assalto nel 1937 della più prestigiosa gara ippica d'America, la californiana Santa Anita. Alla Santa Anita, Seabiscuit va in testa dopo soli 800 metri di scatto e ci rimane fino agli ultimi metri. Sembra avere la vittoria in pugno, ma senza un motivo apparente Pollard rallenta Seabiscuit e i due vengono superati per pochissimo da un altro cavallo, Rosemont, che vince la corsa. Si scatena un pandemonio mediatico. Chi insinua il dubbio di una gara truccata, chi si scaglia contro l'incapacità del fantino, i giornalisti crocifiggono il team di Seabiscuit. Pollard è costretto a confessare a Smith e a Charles Howard, proprietario del cavallo, il suo segreto. Ha rallentato Seabiscuit semplicemente perché non si è accorto che Rosemont stava rimontando alla sua destra, perché ormai completamente cieco da quell'occhio. Lo ha tenuto sempre nascosto, per timore di perdere il posto. Smith e Howard decidono di passar sopra all'accaduto e di riconfermare Pollard, ridefinendo l'obiettivo comune: vincere l'anno successivo la Santa Anita. È il 19 febbraio 1938. Pollard sta correndo in allenamento con un'altra puledra delle scuderie Howard, Farnites. In curva, improvvisamente il cavallo cade. Gli animali che sopraggiungono alle spalle non riescono a evitare Pollard, che viene travolto. Il fantino si ritrova la cassa toracica schiacciata, 3 costole rotte e un braccio spezzato. Per il fantino si profila una lunga sosta, ma è solo la prima di una serie di batoste che il destino ha deciso di infliggergli per metterlo alla prova. Seabiscuit nel frattempo viene cavalcato da George Wolfe, altro fantino esperto e grande amico di Pollard. I successi continuano ad arrivare, ma la Santa Anita sfugge ancora al cavallo di Howard. Il mondo delle corse nel frattempo spinge per l'organizzazione di un duello epico, Seabiscuit contro War Admiral, il cavallo più forte della costa occidentale. Dopo un'iniziale riluttanza dello staff di War Admiral, che considerava Seabiscuit poco più che un ronzino, la sfida viene fissata per il 1 novembre 1938, in tempo perché Pollard recuperi. Il 23 giugno del 1938 Pollard fa il suo rientro e prova a fare un giro di pista su un nuovo puledro allenato da Smith, Modern Youth. Durante il giro di pista però il cavallo si spaventa e scaraventa Pollard a terra, il quale si frattura la gamba in più punti. Secondo i medici la sua carriera è finita. Il 1 novembre 1938 va in scena comunque la battaglia tra Seabiscuit e War Admiral. È l'evento sportivo più atteso e seguito fino a quel momento nella storia degli Stati Uniti. Le tribune dell'ippodromo sono così piene di gente al punto che lo speaker non riesce a raggiungere la cabina radio per la radiocronaca. Ci sono 40.000 persone presenti all'interno della struttura e circa 40 milioni che ascoltano alla radio. La sera prima di correre la gara del secolo, Wolf si reca dall'amico di Pollard per chiedere consigli sul da farsi. Pollard gli dà un consiglio inequivocabile. Non tirare Seabiscuit, anzi, fatti raggiungere da War Admiral. Affiancalo frenando. Seabiscuit non sopporta di arrivare secondo. Se lo freni, sarà come una provocazione. A quel punto lascialo andare. Seabiscuit correrà più veloce che mai. È il cavallo più coraggioso e combattivo di sempre. Ne sono sicuro. Una volta che War Admiral avrà provocato Seabiscuit, lascialo decollare. Pollard conosce bene il suo cavallo e non si sbaglia. Quando la campana suona, i due cavalli partono a forte velocità. Wolf e Seabiscuit passano in vantaggio, ma War Admiral li raggiunge senza problemi. Wolf, seguendo il consiglio di Pollard, rallenta Seabiscuit. Poi il cavallo allunga improvvisamente il galoppo e a 200 metri dall'arrivo stacca War Admiral di 4 lunghezze, vincendo la gara ed entrando da quel momento nella leggenda. Seabiscuit viene nominato cavallo dell'anno 1938. L'unico premio che ancora non è riuscito a vincere è la prestigiosa Santa Anita. La vicenda che lega Red Pollard a Seabiscuit è una grande storia di amicizia. Come tutte le grandi storie, quelle positive, il lieto fine si fa attendere ed è sofferto. Così, mentre Pollard è ancora immobilizzato a letto, una sorte analoga colpisce il suo amico a quattro zampe. Durante una gara, Seabiscuit ha un cedimento in pista, ma finisce la corsa. All'arrivo, il veterinario gela il suo allenatore Tom Smith. Il cavallo si è strappato il legamento della zampa anteriore sinistra e la sua carriera è ormai finita. Il sogno di Smith di vincere la Santa Anita con Seabiscuit sembra svanito. Charlie Howard è un magnate sensibile e corretto. Così decide di ospitare Seabiscuit e Pollard, entrambi feriti a un arto, entrambi ritiratisi dalle corse, nel suo ranch per la riabilitazione. Siccome il fantino sta lentamente sprofondando nell'alcolismo e nella depressione, un medico chiamato da Tom Smith decide di tentare di usare un tutore particolare infilato nello stivale che permette al fantino di riprovare a sedersi sulla sella per fare qualche passeggiata. Pollard chiede che questo tentativo venga fatto in sella a Seabiscuit. I due così riprendono a cavalcare insieme. Chi li vede giura che sembrano farsi coraggio a vicenda. Così, lentamente, i due riprendono a cavalcare e a trottare. Una folle idea si affaccia nella mente del fantino. Chiesi al signor Howard di rientrare con le competizioni per puntare alla Santa Anita. La sua prima reazione non fu particolarmente positiva. Howard accetta di riprendere le competizioni con Seabiscuit, ma non vuole Pollard, cieco da un occhio e di fatto con una gamba sola. Ma Pollard insiste. Risposi, tra me e il cavallo ci sono 3 occhi buoni e 4 gambe in tutto. Mi sembra un numero sufficiente per correre. Il 2 marzo 1940, Howard viene convinto da Tom Smith. Per la terza volta parteciperà alla Santa Anita Handicap con Seabiscuit e con Pollard. Il montepremi è di $121,000. Per assistere al rientro di Seabiscuit alla Santa Anita, gli spettatori paganti all'interno dell'ippodromo sono 78,000. I radioascoltatori non si contano nemmeno. Il cavallo e il suo fantino sono ormai delle celebrità, come scrive la biografa di Seabiscuit, Laura Hillenbrand. Nel 1938, nell'elenco dei personaggi più famosi dell'anno, al secondo posto c'era Franklin Delano Roosevelt e al terzo Adolf Hitler. In testa alla classifica non c'era un uomo, ma un cavallo grasso, zoppo e testardo, guidato da un fantino sfortunato e cieco da un occhio. La partenza non è positiva. Pollard rimane imbottigliato. Decide di provare una rimonta dall'esterno, ma rimane ancora intrappolato nel traffico. A quel punto Pollard lascia accelerare il cavallo e decide semplicemente di fidarsi. Seabiscuit, infatti, scarta violentemente verso destra, sul lato cieco del fantino. È un salto nel buio. Seabiscuit in front, by a hand, kayak on the outside is second, it's kayak and Seabiscuit, head and hand, it's Seabiscuit on the rail, Seabiscuit and kayak. È fatta. Seabiscuit ha vinto. il suo bizzarro team si porta a casa il montepremi record di $120,000. Quel cavallo grasso e pigro, schernito da tutti, diventa il campione più grande nella storia di questo sport. Red Pollard, cieco e zoppo, entra nella storia e con lui l'uomo che l'ha tolto dalla strada, Tom Smith, cowboy silente e sensibile, che per primo ha scommesso su Seabiscuit. La cosa ancora più straordinaria è che un intero popolo che ha sofferto e che ha stretto i denti può rialzare la testa e rispecchiarsi nella straordinaria storia del campione Seabiscuit.